Letture di Radio 24. Una delle 5 stelle che nel movimento di Beppe Grillo rappresentano le 5 priorità per il nostro paese è l'acqua pubblica. Un bene che non può essere privatizzato, come hanno sancito gli italiani in occasione dei referendum abrogativi del giugno 2011, due dei quali riguardavano appunto le tariffe del servizio idrico e la gestione dei servizi pubblici. Ma a 2 anni di distanza, quei referendum hanno prodotto solo un blocco degli investimenti, mentre non è stato fatto nulla per porre un freno allo spreco idrico, commenta Francesco Costa sulle pagine del magazine Il. Il 12 e il 13 giugno 2011, più o meno 2 anni fa, gli elettori italiani hanno abrogato 4 norme con 4 referendum. 2 dei 4 referendum furono sostanzialmente inutili. Le norme sul nucleare, oggetto del 3° referendum, furono abrogate dal governo Berlusconi 1 mese prima del voto, costringendo la Corte Costituzionale a una vuota e acrobatica riscrittura del quesito. Le norme sul legittimo impedimento, invece, furono parzialmente abrogate prima del voto dalla Corte Costituzionale, che poi dovette cambiare in corsa pure quel quesito. Restano quindi i referendum sull'acqua, che però non erano sulla privatizzazione dell'acqua, l'acqua era e sarebbe rimasta in ogni caso un bene pubblico, bensì sull'eventuale privatizzazione parziale o totale delle società che in alcuni casi, per conto degli enti locali, ne gestiscono la rete e la distribuzione. Il servizio. Il primo quesito abrogò una norma che nel giro di pochi mesi avrebbe obbligato gli enti locali a fare delle gare aperte a soggetti pubblici, privati o misti, per decidere a chi affidare in concessione i servizi idrici. Abrogato l'obbligo, tutto è rimasto come prima. La grande maggioranza delle società che gestiscono l'acqua è pubblica. Gli enti locali ne sono contemporaneamente proprietari, gestori e controllori. La vicenda del secondo quesito è più intricata. Abrogò un comma secondo cui la tariffa per l'erogazione dell'acqua fosse calcolata prevedendo la remunerazione del capitale investito dal gestore fino a un massimo del 7%, quota che comprendeva sia i profitti «non si fanno profitti sull'acqua», dissero i comitati, che gli oneri finanziari derivanti da eventuali prestiti, nonché altri costi non scaricabili sulla tariffa. Politicamente fu per molti una questione impegnativa. Esempio. Quel comma fu introdotto nel 1996 dall'allora ministro Di Pietro, lo stesso Di Pietro che nel 2011 fu tra i maggiori sostenitori dei referendum abrogativi. Altro esempio, dopo i referendum, un altro grande sostenitore del sì, Nichi Vendola, disse che l'abrogazione non avrebbe abbassato la tariffa, perché era indispensabile fare i conti con la realtà. Quel 7% era necessario per coprire il costo dei debiti contratti dalle aziende. Ne è risultato un pastrocchio. Per mesi, semplicemente il metodo di calcolo delle tariffe non è cambiato. Nell'attesa che il Parlamento colmasse il vuoto legislativo, ci sono state amministrazioni locali che hanno prolungato le concessioni sulla base della normativa precedente. I comitati referendari hanno lanciato una campagna di obbedienza civile, proponendo di pagare le bollette sottraendo il 7% abolito dal referendum. A luglio del 2012 la Corte Costituzionale ha bocciato alcune norme in materia contenute nel decreto legge Cresci Italia del governo Monti perché contraddicevano la volontà popolare espressa nei referendum. Dal marzo del 2013 le competenze in materia sono state trasferite ufficialmente all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, che ha chiesto un parere al Consiglio di Stato. Contenuto del parere: bisogna restituire agli utenti la parte delle bollette pagate relativa alla remunerazione del capitale investito. I rimborsi riguarderanno al massimo il 7%, pochi euro, e comunque solo le utenze del servizio idrico integrato, uno dei 2 metodi usati in Italia per costruire le tariffe, che qui restano piuttosto basse, al di sotto della media europea. Inoltre riguarderanno solo i 6 mesi successivi all'approvazione dei referendum, da luglio a dicembre del 2011. Questo perché all'inizio del 2013 l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha varato retroattivamente un metodo tariffario transitorio, sulla base del quale determinare le tariffe dell'acqua per tutto il 2012 e il 2013. Il nuovo metodo, in teoria, tiene conto della volontà popolare e non parla di remunerazione del capitale investito, ma secondo i comitati referendari introduce lo stesso concetto definendolo costo della risorsa finanziaria. Intanto che la tariffa transitoria è in vigore, si dovrebbe cercare di individuare un metodo definitivo. Ma sapete che cosa si dice in Italia delle cose transitorie? Le conseguenze per lo stato della rete idrica italiana sono pesanti. Durante la campagna referendaria, una delle poche cose su cui i comitati per il sì e quelli per il no erano d'accordo era che la vittoria del sì, nel secondo quesito, avrebbe determinato la fine degli investimenti privati nella gestione delle risorse idriche, perché nessun privato investirebbe in un settore dal quale sa di non poter ricavare alcun profitto. Secondo i sostenitori del sì, questo esito era auspicabile, anche perché la legge non vincolava la remunerazione del capitale agli investimenti. Secondo i sostenitori del no, questo esito avrebbe fermato gli investimenti e basta. Hanno avuto ragione entrambi, e oggi, salvo poche eccezioni, gli investimenti sono praticamente fermi. Eppure ne servirebbero, e non solo perché avere impianti migliori abbasserebbe i costi di gestione. La rete idrica italiana perde oltre il 30% dell'acqua che trasporta, con picchi del 50% al sud, quanto nessun altro paese europeo. Il 15% della popolazione italiana vive in zone sprovviste di sistema fognario. I depuratori sono pochi e ci sono posti dove, oggi, nel 2013, il servizio è ancora scandalosamente intermittente. Il presidente dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha detto di recente che il settore idrico italiano ha bisogno di 65 miliardi di euro nei prossimi 30 anni. Lo Stato e gli enti locali non ce li danno. Chi li tirerà fuori, per il momento, non si sa. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Francesco Costa, Quel referendum che fa acqua da tutte le parti, dal numero di aprile del magazine Il. L'inefficienza del nostro sistema giudiziario favorisce quasi sempre chi ha torto e alla fine a rimetterci sono i più deboli, scrive Roger Abravanel, il teorico della meritocrazia, in un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera. Qualcuno ha recentemente scritto che l'inefficienza della giustizia civile italiana favorisce i ricchi. È una visione parziale del problema che a volte finisce per aggravarlo. Innanzitutto va ricordato che i tempi da Gabon della nostra giustizia civile favoriscono chi ha torto, e questo a spese di chi ha ragione, ricco o povero che sia. Un operaio licenziato ingiustamente e che dopo 10 anni non vede salvaguardati i propri diritti è sicuramente penalizzato, ma lo è anche un imprenditore che si sente dire da un cliente «io non ti pago, fammi causa». In questa guerra tra poveri, cioè tra chi subisce un torto e non ottiene giustizia, è vero che chi è ricco riesce in genere a sopravvivere meglio. Un creditore abbiente, ad esempio una grande azienda, che deve riscuotere un debito, può più facilmente aspettare rispetto a un artigiano che deve ricevere la stessa somma. Ma questo sentimento, invece di produrre un moto popolare di protesta per accelerare la giustizia, finisce per rafforzare due idee che in Italia producono danni enormi. La prima è il favore che le corti accordano alla cosiddetta parte debole, nei confronti delle quali spesso si chiude un occhio. Il risultato è che le parti forti, grandi aziende e amministrazioni pubbliche, proprio perché sono forti, scaricano il costo delle cause perse o vinte a metà sulle parti debolissime, ovvero i clienti che pagano e non protestano. È il caso delle assicurazioni auto, che in Italia costano il doppio del resto d'Europa, perché le compagnie assicurative scaricano sulle tariffe le frodi e i falsi colpi di frusta. La seconda è la grande riluttanza a far pagare per intero a chi perde le spese legali di chi vince, specie quando queste spese legali includono le elevate parcelle di un grande studio legale. Così si incoraggiano le cause futili che ingolfano i tribunali e cresce a dismisura il numero di avvocati, 4 volte che in Francia, alimentando il circolo vizioso proprio a danno dei deboli. La nostra giustizia civile, che favorisce i furbi e disonesti, è una delle cause principali dell'impoverimento di tutti. Se ne potrà uscire quando si abbandoneranno le ideologie populiste e si cercherà di estendere al paese gli approcci dei tribunali che funzionano, per ricchi e poveri, come quello di Torino, guidato dall'ex presidente Mario Barbuto, oggi presidente della Corte d'Appello. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Roger Abravanel, I danni della giustizia inefficiente, favorito quasi sempre chi ha torto, dal Corriere della Sera del 16 aprile.